benvenuti a questo dibattito, questa chiacchierata, diciamo. E inizio con presentare i nostri ospiti, che naturalmente ringraziamo per la loro disponibilità. Sulla mia destra vedete Cristina Zanini Barzaghe, che sostituisce il municipale Angelo Ielmini, assente per malattia. La conosciamo tutti, Cristina Zanini Barzaghe, ingegnere civile diplomata all'ETH, con titolare di uno studio di ingegneria civile, già docente alla SUPSI, molto attiva nei progetti di promozione delle professioni tecniche, soprattutto quelle rivolte alle ragazze, è presente anche nelle nostre scuole. È municipale dal 2013 di Lugano ed è titolare del Dicastero Immobili. Si occupa prevalentemente di temi legati alla gestione del territorio, dapprima come responsabile delle aree di costruzione, servizi urbani e verde, e oggi appunto di questo nuovo Dicastero Immobili. Abbiamo Stefano Baragiola, che sostituisce a sua volta a Tiziano Fontana. Stefano Baragiola è dell'ufficio presidenziale della STAN, cioè della Società Ticinese per l'Arte e la Natura. Alla mia sinistra Lorenzo Sonognini, diplomato in Scienze Naturali e Politecniche di Zurigo e dal 2011 dirige la Fondazione Monte Verità di Ascona, eppure vicepresidente della Fondazione Verzasca e presidente del Museo Etnografico della Verzasca. L'architetto Paolo Pocciati, paesaggista, rappresenta il cantone. Dal 2011 dirige appunto la sezione dello sviluppo territoriale in seno al Dipartimento Cantonale del Territorio. Il titolo di questo incontro è «Quale protezione dei beni culturali in Ticino?». I beni culturali in Ticino sono, diciamo così, governati da una legge, la legge sulla protezione dei beni culturali del 1997. Forse è utile ricordare cosa sono i beni culturali. L'articolo 2 ce lo dice. I beni culturali sono le cose mobili e immobili che singolarmente o nel loro insieme rivestono interesse per la collettività in quanto testimonianze dell'attività creativa dell'uomo in tutte le sue espressioni. In altre parole, il bene culturale è un oggetto, un manufatto architettonico, un edificio o un insediamento nel quale la collettività riconosce un significato e un valore particolare. L'articolo 1 della stessa legge ci dice che occorre sostenere la protezione e la valorizzazione dei beni culturali e promuoverne la conoscenza e il rispetto. La tutela del patrimonio culturale è compito del proprietario e dell'ente pubblico. Esistono due gradi di protezione ai sensi della legge: la tutela cantonale, istituita dal cantone su preavviso della Commissione dei beni culturali, e la tutela locale, solo per i beni immobili, decisa dal comune. E tutti i beni tutelati figurano nell'inventario dei beni culturali del Canton Ticino. Bene, il dibattito dedicato ai beni culturali e al paesaggio negli ultimi anni ha assunto sempre più importanza. Per esempio in relazione al tentativo di salvaguardia della Villa Galli, la romantica Amelide, demolita nel 2013, alla demolizione della Villa Branca Amelide, un bel esempio di costruzione liberty, la distruzione dell'ex collegio Soave in via Ghiringhelli a Bellinzona, nonostante l'edificio fosse iscritto nell'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere, e infine alla variante di PR dedicata ai beni culturali di Lugano. Aggiungiamo che in Ticino sono molti gli edifici in disuso che potenzialmente potrebbero essere riconvertiti in centri culturali, associativi, atelier, sale musicali. Uno studio dell'Accademia di Architettura citava ben 1120 edifici potenzialmente riconvertibili. E dato che il territorio edificabile diventa sempre più ristretto, dovrebbe essere un'azione lungimirante conservare l'esistente, riqualificarlo e riconvertirlo. Esempi, le ex stazioni ferroviarie in Leventina, penso alla stazione di Bodio, di Rodifiesso, che potrebbero essere, per esempio, trasformati in ostelli per la gioventù, non dico in un museo come l'ex stazione di Orsay a Parigi, però potrebbero avere una destinazione ancora utile per la collettività. Per finire con gli esempi voglio citare anche l'ex piazzale scuole o UBS di Lugano, che nonostante la vicinanza della cosiddetta pensilina botta non può essere certamente considerata una piazza, anzi forse è un non luogo, uno spazio centralissimo di cui dovremmo magari avere un po' di vergogna. Vedo che stanno vendendo le scive a materassi e non è certamente un bel biglietto da visita per una città che vuole essere una città turistica. Una solida identità culturale di un paese presuppone dunque la difesa del suo territorio e della sua storia, quindi anche, per fare un altro esempio, del parco della villa di Ermanesse, che a partire dagli anni 30, come ricordava l'architetto Benedetto Antonini sul domenicale Il Caffè del 10 luglio scorso, fu meta di molti antifascisti. Oggi la villa e il parco sono minacciati da un'operazione immobiliare, in quanto entrambi appartengono alla famiglia Pavesi, gli inventori dei Pavesini. Concludo questa breve introduzione con alcune domande ai quali i nostri ospiti potrebbero rispondere. Quali strumenti sono a disposizione per proteggere i beni culturali e il paesaggio? Quali sono i principi che ispirano la politica di tutela da parte dello Stato e i criteri seguiti per allestire l'inventario dei beni da proteggere? La legge sulla protezione dei beni culturali del 97 si è rivelata sufficiente o presenta articoli che andrebbero modificati, come espresso per esempio il professor Bernard Fuhrer, già presidente della Commissione federale dei monumenti storici e della Società per l'arte e la natura, STAN, che nell'ottobre del 14 ha presentato un'iniziativa popolare legislativa generica intitolata Un futuro per il nostro passato, per un'efficace protezione del patrimonio culturale del territorio ticinese. Un'iniziativa in gran parte condivisa dal governo. Infatti il Dipartimento del Territorio ha elaborato un progetto di revisione globale della legge e del regolamento sulla protezione dei beni culturali. Ecco, forse partirei da qui, chiedendo appunto a Stefano Baragiola le ragioni delle iniziative che sono state in parte riassunte da me, ma anche il perché. Buongiorno a tutti. Credo che il perché di questa iniziativa è stato già riassunto in un modo perfetto. L'esempio plateale della distruzione di Villa Galli, la Romantica, è una seconda conferma della totale assenza di sensibilità dell'autorità comunale. 15.000 persone hanno condiviso con noi l'esigenza di finalmente perfezionare la legge che già esisteva e, fatto direi estremamente interessante e straordinario, il Consiglio di Stato e tutto l'apparato dello Stato hanno condiviso in fretta questa necessità di rivedere la legge. Ma la legge, anche questa nuova che voglio sperare il Gran Consiglio andrà ad accettare, la legge non è tutto. Perché troppe volte noi constatiamo che nella realtà di tutti i giorni il bene culturale da proteggere, anche con tutto l'armamentario di regole che esistono oggi, esisteranno domani, siccome perfezionate, questo bene culturale non riesce ad essere preservato perché manca una cultura e una sensibilizzazione, direi, morale del bene culturale. Noi non ci possiamo affidare soltanto alle leggi Quando io, proprietario di un bene culturale, vado a costruire una palazzina di appartamenti nell'area circostante verde del bene culturale, lo appiccico al bene culturale, lo soffoco e lo strozzo. Tutto regolare. Va tutto bene. Così io non ho fatto sicuramente un servizio al bene culturale. Non ho fatto niente per creare finalmente il valore di questo bene culturale. Quindi il senso di questa nostra iniziativa va oltre tutto quello che noi abbiamo cercato di proporre per la revisione della legge. E anche tutte le discussioni che ci saranno in Gran Consiglio non serviranno se finalmente aumenta questa sensibilità nostra, di noi cittadini. Io vi parlo come cittadino, non sono un esperto di beni culturali, sono soltanto un cittadino che si impegna anche in questi temi, difficilissimi, estremamente complessi, facile banalizzare, fare degli slogan. Quindi quello che a me interessa in modo particolare oggi è lanciare un messaggio ai miei colleghi cittadini che mi ascoltano, affinché aumentino di gran lunga l'attenzione privata verso il bene culturale e aumentino l'interesse per ogni manomissione, per ogni progetto che è in corso e che sarà in corso, che potesse mettere in pericolo il bene culturale. Ho fatto un esempio prima dell'area verde. Io questi esempi sono esempi concreti. Sto parlando del quartiere di Montarina, sto parlando del villino Luti, che è un bene culturale protetto a livello cantonale. Tanto per fare un esempio. Volete un secondo esempio? Di un comune che demolisce una cappella di una via Crucis, Ronco sopra Ascona, nel 2013, tranquillamente per permettere la costruzione di autorimesse e l'allargamento di una strada cantonale. Tranquillo, non ha fatto notizia se non fosse per uno sparuto gruppo di persone sensibili che ha voluto rendere attenta la Stan a questo spregio da parte di un'autorità. Quindi, e poi mi fermo, in modo particolare, noi constatiamo un grande sforzo da parte delle autorità cantonali che hanno cambiato atteggiamento, sono diventati più fermi e attenti a queste problematiche. Prova ne sia, ancora un esempio, l'ex ospedale della Beata Vergine a Mendrisio, Palazzo Turconi, l'avete seguito sui giornali, il dibattito, un dibattito arrogante da parte dell'Accademia di Mendrisio, ma finalmente questo bene culturale è stato salvato ed è così che si fa. Occorre avere coraggio, prendere il coraggio alle due mani e finalmente realizzare una protezione concreta dei beni culturali. Bene, grazie. Beh, direi a questo punto di passare la parola a Paolo Poggiati. Ho detto prima che in fondo questa iniziativa è stata favorevolmente accolta, l'ha ricordata anche adesso Baragiola. È così? Sì, buongiorno a tutti, è in effetti così. L'iniziativa firmata da 15.000 persone è intervenuta in un momento in cui il governo si era già chinato sul tema dell'efficacia della tutela dei beni culturali. Vi erano stati degli atti parlamentari in precedenza, la mozione Ghisletta del 2008, un intervento, una mozione di nuovo del 2013 di Dadò, che erano stati dei segnali anche istituzionali per il governo per chinarsi nuovamente su questo tema. Tant'è che appunto nel 2014, dunque prima ancora che venisse lanciata l'iniziativa, e questo spiega anche i tempi di reazione brevi che ci sono stati, è stato istituito un gruppo di lavoro al nostro interno che ha ricevuto il compito di esaminare criticamente proprio i dispositivi legali, le procedure per verificare se ci fosse o meno la necessità, rispettivamente quali margini per migliorare queste basi legali. In questo senso l'iniziativa per noi è stato uno stimolo interessante, democraticamente forte, proprio perché ha avuto un grande successo legato, come si diceva in precedenza, da questi momenti di grande impatto territoriale e anche emotivo legati alla distruzione di alcuni beni culturali che erano diventati anche un po' il simbolo di tutto il patrimonio del nostro cantone. Va anche detto che ovviamente non fanno notizia le tutele che funzionano. Questo è un aspetto su cui magari dopo possiamo chinarci. Quindi il governo ha condiviso la necessità di una revisione della legge dopo 19 anni dalla sua applicazione, ha sostanzialmente anche condiviso le proposte della Stan, sebbene non tutte, e magari ci soffermiamo su una che è molto importante, ci ritorno, ed ha sottoposto attraverso un messaggio che vi invito ad andare a consultare in internet, è un messaggio del 7 ottobre 2015, il numero è 7128, lo dico perché veniamo registrati, perché in questo messaggio c'è una sintesi oltremodo completa, interessante, di che cosa è stata la politica della tutela dei beni culturali nel nostro cantone negli ultimi 20 anni. Che cosa condividiamo e che cosa invece non abbiamo ripreso interamente dall'iniziativa Stan? Anticipo che con la Stan abbiamo avuto una discussione proprio su questi temi e alla fine ci siamo trovati concordi. Condividiamo il fatto che le procedure sono troppo lunghe, troppo complesse, poiché sono ancorate alla revisione dei piani regolatori, soprattutto per i beni cantonali. Ora, il cantone tutela i propri beni attraverso uno strumento che è comunale. Questo ha generato, il piano regolatore per l'appunto, questo ha generato negli ultimi 20 anni dei disfunzionamenti legati soprattutto a una tempistica lunghissima. Non condivide invece il governo il fatto di concentrare nelle mani o nell'autorità decisionale proprio governativa la tutela di tutti i beni culturali, dunque anche quelli di importanza locale. Era questo un tema che la Stan aveva sollevato proprio a seguito dell'insensibilità dimostrata da alcuni comuni, e la soluzione della Stan in quel momento è stata: concentriamo tutto il processo decisionale a livello cantonale, tuteli tutto il cantone. Ora, il cantone non ha aderito a questa proposta anche per motivi culturali, poiché sarebbe fallimentare una politica di beni culturali imposta interamente dall'alto, in cui le comunità locali sarebbero semmai sentiti, ma non avrebbero né un potere decisionale e, cosa ben più grave, nemmeno la responsabilità che ne deriva. Le considerazioni del governo su questo punto sono molto chiare. La tutela dei beni culturali deve essere anche espressione di una sensibilità locale, e qui ci riallacciamo al tema che ha sollevato Baragiola, quindi le leggi non bastano, ci vuole anche maggior consapevolezza, cosa che peraltro però ci sembra che nel frattempo stia maturando. Quindi la legge prevede una procedura più celere per le tutele dei beni cantonali, mantiene le competenze dei comuni per i beni locali, ma introduce per i comuni un metodo di lavoro codificato e una figura che è quella dell'esperto, che oggi solo parzialmente viene utilizzata. Mi permetto di spiegarla e poi dopo magari smetto, perché sennò vi spiego tutta la legge e non è il senso di questo dibattito, ma questo è un punto fondamentale. Abbiamo bisogno che le tutele dei beni culturali avvengano con criteri oggettivi e scientifici. Questa è una prima esigenza. La seconda esigenza: l'autorità che decide se tutelare o meno un bene deve poter avere un margine di manovra, cioè deve essere possibile anche di decidere di non tutelare un bene attraverso una ponderazione di interessi, ma questa decisione deve essere giustificata, non deve essere arbitraria, deve essere frutto di una trasparente di un trasparente confronto tra interessi contrapposti e di una decisione che ogni autorità ha legittimamente il diritto di prendere. Oggi funziona così solo in parte. A volte, appunto, riceviamo delle proposte di tutela incomplete, incomplete per l'oggetto stesso, ma incomplete perché mancano tutta una serie di oggetti. Non è sempre il caso, ma succede spesso, e soprattutto non necessariamente si danno le informazioni su qual è stato il criterio di scelta rispettivamente di proposta definitiva. La legge prevede che il Comune faccia questo compito partendo dal censimento dei beni culturali che è allestito dal Cantone, quindi il Cantone fornisce i dati di base, l'esperto li valuta, li completa, con un lavoro, ripeto, scientifico e oggettivo con dei criteri esplicitati, li pone in gerarchia, cioè pone tutti i beni culturali potenzialmente degni di protezione con una gerarchia e fa delle proposte al municipio. Il municipio, in prima istanza, valuta queste proposte e decide, sulla base di questa ponderazione di cui vi parlavo, ma in maniera trasparente e scritta, quali tutelare e quali no. Poi sente il Cantone che si esprime nel merito, in seguito c'è un confronto con l'opinione pubblica rispettivamente con i cittadini del comune interessate e infine il Consiglio Comunale decide. Ecco, decide sulla base di una documentazione che parte da un elenco completo e che termina con un elenco sicuramente in genere ridotto dei beni che sono da tutelare. Ora il governo è convinto che con questa procedura si migliori l'efficacia delle tutele, ma soprattutto si renda più consapevole la cittadinanza di che cosa viene scelto e di che cosa soprattutto viene scartato e per quali motivi. Bene, grazie. Faccio un rapido giro, poi naturalmente darò la parola anche a voi se avete delle domande, anche per rendere più attivo questo momento. Cantone, quindi municipio, enti culturali, privati. Quindi passo adesso a Cristina. È da ieri la notizia che il municipio di Lugano vuole dare un volto nuovo al centro città e per dare forma ai suoi progetti chiederà 8,5 milioni al Consiglio Comunale. La notizia è di ieri, magari possiamo saperne di più. Cosa intende fare con questa richiesta il municipio? Intende tutelare il centro storico? In che modo? No, a dir la verità, il messaggio che è stato presentato ieri in sostanza tocca pochissimo i beni culturali, si tratta semplicemente della sistemazione definitiva di Via della Posta, Via Magatti, che era già stata presentata nel 2012 al Consiglio Comunale e che prevedeva appunto un riordino di queste due strade in modo da poterlo allacciare dal punto di vista dell'arredo meglio con le due zone pedonali adiacenti. Il dossier, e poi naturalmente ci sono 5-6 milioni che sono dedicati a infrastrutture, quindi niente a che fare, nemmeno questo, con i beni culturali. Però il paesaggio è un bene culturale, quindi in qualche modo va tutelato. Esatto, però appunto vorrei arrivare forse a fare qualche riflessione un po' più, andare un po' oltre dal termine della tutela, perché è un po' peccato che dobbiamo pensare a tutelare alcune cose e altre no. Prima di tutto vorrei scusare che non c'è oggi Angelo Ielmini per ragioni salute, che è molto più addentro nel dossier dei beni culturali Lugano. Magari è bene ricordare, prima di parlare del messaggio di Via della Posta, Via Magatti, che a Lugano con grandissima fatica Giovanna Masoni nel 2004 aveva attivato la tematica dei beni culturali e con una grandissima fatica era arrivata a presentare un messaggio nel 2009, 5 anni ha impiegato, con un clima completamente differente di quello che abbiamo adesso in municipio. Nel 2009 il Consiglio Comunale si è confrontato e si è aperto un grandissimo dibattito pubblico e si è arrivati a votare in Consiglio Comunale questa variante di beni culturali, ponendo anche alcune restrizioni ulteriori rispetto a quelle proposte inizialmente dal municipio, nel 2011. Dal 2011 ad oggi non siamo ancora riusciti a mettere in vigore questa variante, che è al momento ancora a Bellinzona per l'ultima approvazione. In municipio ci siamo già posti il quesito di come ampliare la discussione e si è presentato appunto lo scorso anno un messaggio per avere un credito per partire con una elaborazione generale del piano regolatore, dove bisogna soppesare in modo più globale la tematica dei beni culturali, ma non da ultimo anche quella del paesaggio, degli insediamenti. Spesso si parla di oggetti, come questo è anche un oggetto, però non si parla in termini generali di comparti o i comparti sono molto piccoli. Questo dal punto di vista pianificatorio. Un'altra cosa che ci tengo a dire è che questo è un tema molto correlato con tutta l'attività di costruzione, lo dico non solo perché sono professionista di questo ramo, ma anche perché con il mio dicastero che si occupa del patrimonio costruito della città e deve realizzare i progetti, ci si confronta con tutta un'altra serie di normative che vanno in contrasto con quello che potrebbe essere la necessità di tutela. Questo lo dico perché è bello che si revisioni la legge dei beni culturali, ma se non si pensa come affrontare seriamente degli altri temi, come non so, la prevenzione incendi, la prevenzione sismica, abbiamo visto nei scorsi giorni che le case crollano se non si rinforzano, oppure anche il risanamento energetico che è molto restrittivo, oppure anche le disposizioni legate ai posteggi. Adesso il piano regolatore impone che se si edificano degli edifici residenziali bisogna fare un tot numero di posteggi. Secondo me questa è una normativa che ha portato ad avere delle enormi demolizioni in città, proprio perché tutto il patrimonio esistente non rispettava queste nuove regole e gioco forza è stato abbattuto per potersi adeguare a queste nuove normative. Quindi il tema dell'assetto normativo è molto più generale, non è solo tutelare alcuni oggetti che fanno parte della nostra cultura, della nostra storia, ma è anche tutelare un certo tipo di qualità di vita che si vuole in città. E quindi questo, il tema è un po' più vasto e compete ai municipi. Chiudo questo primo intervento dicendo una frase di un libro di un saggista un po' così, per la quale Architettura e felicità si chiama il libro. L'ultima frase è una frase di Le Corbusier che dice: dobbiamo ricordarci sempre che il destino delle città viene deciso in municipio. Purtroppo, per fortuna o purtroppo è così, quindi anche i criteri oggettivi e scientifici è giusto che vengano formulati, ma la politica deve appropriarsene, altrimenti è molto difficile portare avanti un discorso di tutela anche più vasto che va oltre a quello dei singoli edifici particolarmente notevoli da conservare. Bene, sì, non è che voglio correggere Le Corbusier, per Madrid, però è vero che il destino viene deciso municipio fino a un certo punto, perché il municipio viene eletto dai cittadini, i cittadini hanno gli strumenti, come la Stana ha ben dimostrato, per eventualmente correggere decisioni sbagliate del municipio. Voglio coinvolgere il nostro ultimo ospite, Lorenzo Sonognini, che dal 2011 dirige la Fondazione Monte Verità di Ascona, una fondazione che ha saputo valorizzare un sito che agli inizi del secolo scorso ebbe una vita particolare, animata da utopisti, artisti internazionali. Insomma, mi pare di poter dire che è un bel esempio di valorizzazione di beni culturali. Ecco, magari non tutti sanno che cos'è la Fondazione Monte Verità o come siete riusciti e con fatica a mantenere vivo questo sito. Grazie mille, buongiorno a tutti signore e signori, è un piacere per me essere qui nel sottocenere e parlare di Ascona e del Monte Verità, perché vedo che purtroppo il Ticino è un po' troppo diviso nel sopra e sottocenere. Io faccio fatica a condividere questa divisione, trovo che il Ticino ha una sua unità ed è importante che ognuno conosca tutto il territorio. Fatta questa premessa, parlo volentieri del Monte Verità. Il Monte Verità è nato nel 1900 come colonia vegetariana all'inizio, poi come sanatorio, ed è stata un'esperienza molto importante che ha creato un'attrazione talmente forte da innescare il turismo nella regione del Locarnese. Quindi, se vogliamo, il turismo in Ticino è anche debitore del Monte Verità. Un'esperienza che si è conclusa nel 1920 con la partenza dei fondatori Henry Udenkofen e Ida Hoffmann, a cui sono poi seguiti degli artisti e nel 26 il barone Edward von der Heydt acquistò la collina e costruì l'albergo in stile Bauhaus, un stile moderno. Quindi nel 29 l'albergo che vediamo oggi è un albergo del 29, e ha donato nel 64 tutto quanto al Cantone Ticino. Quindi dal 1964 il Monte Verità, con le capanne aria luce, quelle poche superstiti, perché va detto che anche lì c'è stata una fortissima demolizione e anche da parte di architetti, quindi persone che dovrebbero anche essere sensibili a questo aspetto, è un susseguirsi di livelli storici, quindi le capanne aria luce dell'inizio del Novecento, l'albergo in stile Bauhaus e la villa Semiramis del 1909, l'albergo del 29, e poi in seguito con l'arrivo di Harald Zeman, che trasformò una delle case, la casa Anatta, in sede del Museo della Storia del Monte Verità. Quindi abbiamo una stratificazione e una gran quantità di beni storici molto diversi tra di loro, dalle capanne di legno fino agli edifici di grandi dimensioni. Come si gestisce questo? Ecco, adesso abbiamo parlato fino adesso di protezione, di regole, di chi deve farle rispettare, di come le facciamo rispettare. Ecco, il problema sorge quando poi il bene è tutelato. Ok, lo vogliamo riconvertire, e dal 1989 il Monte Verità è stato riconvertito a centro congressuale con la collaborazione del Politecnico di Zurigo. Quindi dall'89 il Monte Verità è centro congressuale del Politecnico di Zurigo. La Fondazione Monte Verità nasce nel 1990 come collaborazione. Nella Fondazione siedono 4 membri del Canton Ticino, 2 dei 2 Politecnici e 1 del Comune di Ascona. Da allora viene gestito come centro congressuale e culturale. Ora, il problema nasce proprio qui. Quando si ha un bene culturale, siamo tutti d'accordo che lo vogliamo proteggere, ci mettiamo d'accordo anche come proteggerlo, poi nasce la domanda: chi, cosa si vuole fare all'interno, chi si assume i costi. Vi faccio un esempio molto, molto chiaro. Allora, abbiamo questo albergo, è stato costruito nel 29, come ho già detto. Dal 2007 al 2011 è stato oggetto di un restauro conservativo che ha riportato questo bene storico agli antichi splendori della sua origine. Quindi, utilizzando anche delle tecniche costruttive tipiche dell'epoca, rispettando il più possibile il bene storico, quindi la sostanza storica. Un esempio per tutti, e mi riallaccio a quello che diceva la signora Zanini Barzaghi: abbiamo i vetri singoli con l'intelaiatura in metallo. Ovviamente dal punto di vista energetico è un colabrodo. Allora, noi stiamo gestendo un albergo con dei costi energetici spropositati, ma dobbiamo far quadrare i conti. E allora è lì che nasce un po' questo problema. O il bene tutelato viene anche sostenuto, ma se si pensa o ci si illude che si può rimodernare o mettere a posto un bene e poi qualche magia lo fa funzionare e magari anche rendere senza che ci sia un sostegno invece di quello che è la gestione corrente, ecco, lì nasce un po' il problema. Prima parlava di oltre 1000 oggetti che si potrebbero recuperare, e torno a ripetere, non possiamo creare 1000 centri culturali in Ticino. Abbiamo qui il responsabile dell'osservatorio cantonale, potrebbe dire chiaramente che numero spropositato di eventi culturali e di enti che organizzano ci sono in Ticino, che da un lato è molto positivo, vuol dire che la vita culturale del Ticino è molto ricca, è molto variata ed è anche di grande qualità, ma quanto possiamo sostenere? Quanto questo lembo di terra al sud delle Alpi può sostenere? Quindi il problema si pone proprio in questi termini: cosa facciamo con questi beni, come li tuteliamo, in che forma, chi se ne deve occupare, chi si assume i costi di questa tutela. Ed è lì che a volte nasce proprio il problema. Bene, grazie. Vediamo se ci sono repliche tra di voi, oppure possiamo già aprire al pubblico se avete delle domande da fare ai nostri ospiti. Abbiamo toccato appunto dei temi sicuramente molto interessanti, dal PR del Comune di Lugano ai problemi sollevati adesso da Sonognini, alla legge che tutela i beni culturali, poi naturalmente una volta tutelati questi beni, come dice Sonny, poi occorre anche dargli contenuti. Ci sono domande da parte del pubblico oppure voi che volete interagire? Sì, prego. Magari c'è... Aspetta che arriva il microfono. Mi piacerebbe sapere quali siano i criteri scientifici per definire un bene culturale o da tutelare. Se lo potete spiegare, perché non è semplice, cioè, al di là dei criteri estetici, forse anche politici, ci sono i criteri scientifici. Grazie, se mi prego. Potete. Diamo la parola all'architetto Poggiatti. Sì, sono codificati come proposta adesso nella proposta di modifica del regolamento. Sono legati all'importanza storica, all'importanza architettonica, all'importanza artistica di un bene, al significato che questo bene ha per la collettività e poi altri criteri che sono legati appunto ai documenti federali che sono disponibili rispettivamente alle carte internazionali, soprattutto anche per gli interventi. Io non sono un esperto di beni culturali, quindi non sono in grado di entrare nel dettaglio di questi aspetti. Dispongo di esperti all'interno della mia sezione, all'ufficio dei beni culturali, persone formate, un ufficio che è diventato importante. Vi ricordo che all'epoca di Donati c'era lui da solo a fare questo lavoro, dopo con i pregi e i difetti di quando c'è un'unica persona che fa questo lavoro. Oggi all'ufficio dei beni culturali lavorano circa 16 persone che si occupano però di individuare, di lavorare sui beni da tutelare. Sono i collaboratori del servizio inventario, che sono 4 persone, che si avvalgono però di esperti esterni, della protezione civile, eccetera. Il lavoro di analisi, di istituzione della tutela viene fatto quindi dall'ufficio e dalla Commissione dei beni culturali, che ha un compito di consulenza all'ufficio stesso. Quindi sono 9 esperti anche lì che lavorano su questi temi. La carenza, come dicevo, è piuttosto la competenza non sul piano cantonale ma sul piano comunale. Ma non è una critica che si fa ai comuni. Le ripeto, io stesso non sono in grado di giudicare il valore di un bene culturale, soprattutto tra l'altro quando ci si china su oggetti che non rispondono a dei canoni estetici particolari, magari che sono di recente costruzione, di recente tra virgolette, legati al moderno, in cui si necessita di avere delle spiegazioni sul significato anche storico di questi edifici, che però non sono storici nel senso vecchi. Quindi ripeto, le carenze a livello conoscitivo comunale fanno sì che oggi le tutele, le proposte di tutele anche dei beni locali, di fatto passino dal lavoro dell'ufficio dei beni culturali, che è oberato. Cioè, ripeto, 4 persone più collaboratori esterni più la commissione devono lavorare non solo al censimento ma anche alla completazione delle schede di questi oggetti, che ripeto fanno parte di un censimento che contiene oggi 124.000 oggetti, quindi non pochi, compresi beni mobili evidentemente. L'importanza è il fatto che le tutele siano giustificate, che siano spiegate, che siano ripeto, frutto di un lavoro di analisi, ed è ciò che avviene negli ultimi anni. Intendiamoci, Lugano da questo punto di vista è stato un po' un precursore. Oggi sono partite tutte le grandi città, Locarno, Bellinzona, Mendrisio sta partendo, mancano ancora all'appello diversi comuni, però ecco, adesso il sistema di lavoro in realtà è collaudato, funziona a nostro giudizio anche abbastanza bene, però mancano queste figure di esperti che a livello comunale svolgano quel lavoro che oggi in parte deve essere svolto dall'ufficio dei beni culturali. Bene, Cristina, Zanini, magari puoi aggiungere, in base all'esperienza tua, ma anche dei tuoi colleghi. Beh, sì, grazie. Ma vorrei un po' capire meglio anche cosa vuol dire essere esperto in beni culturali, perché, come dicevo all'inizio, il conservare, ma anche il costruire nuovi edifici o anche nuove infrastrutture, comunque fa parte anche questo della cultura, quindi e diventerà poi anche storia, e quindi riflette anche poi quello che siamo. Ma io penso che più che figure di esperti abbiamo bisogno di dialogo e di confronto anche fra diversi esperti, perché comunque spesso ci si confronta con delle figure esperti che sono storici, che vedono solo una parte del, diciamo, di quello che significa il bene culturale, ma però mancano altri tipi di competenze, quindi faccio un po' fatica a accettare che ci sia una certa elite di persone che sono esperti e che possono giudicare se delle cose vanno bene o non bene. Forse bisogna tornare a fare una discussione su come, ad esempio, potrebbero funzionare delle commissioni nucleo. Ad esempio, noi abbiamo la discussione delle commissioni nucleo a Lugano, perché ogni quartiere, ogni ex comune ne aveva una, e c'erano in queste commissioni non solo esperti, c'erano anche persone che avevano dei legami con i luoghi, perché spesso questi beni culturali hanno una valenza non solo dal punto di vista storico, ma anche perché c'è un legame forse anche affettivo, non solo di qualità. Ecco, e quindi forse bisogna tornare a discutere non quali criteri oggettivi e scientifici bisogna fare, non solo questo, non solo gli esperti, ma anche come organizzare diciamo questa tutela, facendo più sensibilizzazione, più cultura, e facendo qualche iniziativa in più di partecipazione. Ad esempio, io sento adesso che ci sarà questo nuovo regolamento, è vero che non è il mio dicastero, però è peccato, mi piacerebbe che ci sia una consultazione magari a qualche livello, magari c'è stata e me lo sono persa, e se è così me ne scuso, ma forse ha senso recuperare, di far parlare tutte le cerchie che sono interessate a questo tema, che non sono necessariamente solo gli storici o gli architetti o gli urbanisti, potrebbero anche essere sociologi, geografi o ingegneri. Quindi, perché quando devo tutelare un oggetto, come dicevo giustamente Solognini, devo poi pensare, ma poi che cosa ci faccio con questo oggetto? Resterà una fattoria, adesso se non è più una fattoria in centro Lugano, come posso fare? Cosa la faccio diventare? Ecco, e quindi un minimo di trasformazione deve essere considerata, e questo necessita comunque di un lavoro di squadra che non penso che possa essere delegato solo a degli esperti di un certo ramo. Però forse ho capito sbagliato. Baragiola, che devi? E io dico, e non basta ancora, perché, come dice Furer, ogni società ha i beni culturali che si merita. Ed è in una conferenza che ha sottolineato che anche, per esempio, gli edifici con un impatto sociale importante meritano di essere tutelati. Il rione Madonnetta a Lugano ha tentato e sta tentando di nuovo proporre la protezione degli stabili di via Marco da Carona, dell'architetto Cavadini, attribuita a Tami. La Cassa Pensione di Lugano, dei dipendenti di Lugano, sta facendo opposizione contro questa decisione del Consiglio Comunale. Il municipio di Lugano ha rivoltato questa decisione del Consiglio Comunale, e allora i cittadini cosa fanno? Prendono finalmente carta e penna e hanno fatto quello che spero qualcuno si sia accorto attraverso i giornali, e hanno proposto di nuovo il tema della protezione, per esempio, di questi stabili di via Marco da Carona, che il municipio ha definito di scarso valore architettonico. Non è il valore architettonico che conta, è la storia sociale che ci sta dietro. Questo è anche un valore. Esattamente quello che cerchiamo di oggi, penso, finalmente proporre a tutti i cittadini. Partecipate a questa discussione, è indispensabile. Ma del resto è anche detto nell'articolo 2 della legge che un edificio, un insediamento è importante se la collettività riconosce in quell'edificio un significato, un valore, ovviamente. Prego. Vorrei aggiungere un paio di considerazioni. Perché proteggiamo i beni culturali? Cioè, la domanda di fondo è quella: perché dovremmo proteggere i beni culturali? Io mi sono dato una risposta, è perché rappresentano la nostra identità. Se noi perdiamo i beni culturali, perdiamo la nostra identità. Se noi andiamo a Zurigo oggi, vediamo la città vecchia, sono state edificate diverse cose, però se vogliamo cercare il cabaret Voltaire lo troviamo ancora. Quante cose abbiamo perso a Lugano, a Locarno, ad Ascona, in diverse nostre città? Guardo con un po' di timore quello che sta succedendo a Bellinzona, spero che lì si riescano a mantenere questi quartieri che a Lugano sono andati persi, a Locarno sono andati persi, a Bellinzona ci sono ancora. Col Museo di Val Verzasca noi proteggiamo un rastrello di legno, quanto di più umile ci possa essere. Allora, perché merita di essere protetto? Non il singolo rastrello, ma il rastrello come simbolo, perché fa parte della nostra identità. Se noi perdiamo le collezioni dei musei etnografici, perdiamo la nostra storia e la nostra identità. Quando non ci sarà più nessuno che potrà far vedere un rastrello al proprio figlio e dirgli guarda che serviva qualche cosa, avremo perso qualche cosa. Mi occupavo di protezione della natura, era lo stesso identico problema. Perché è importante proteggere una rana? Perché dobbiamo investire a proteggere uno stagno? Perché forse ha un valore in sé. Allora, c'è il valore in sé, c'è il valore identitario, e che non è giustamente legato a una monumentalità. Parliamo di edifici perché sono gli esempi più eclatanti, ma la cappelletta o alcuni piccoli elementi sul territorio che vengono persi, dei muretti, un paesaggio di muretti a secco che non c'è più, serve a qualche cosa, serve a qualcuno, ci interessa ancora ricordarci di com'era la vita l'altro ieri, non mille anni fa, l'altro ieri. Quindi questi sono temi di riflessione forse che è importante tenere presente quando si parla di beni culturali. Prego. Il microfono non so più dove è finito. Sì. Isletta. Ciao. Ecco. È lì. Ecco, è arrivato. Grazie. Sì, sono. Faccio l'avvocato e mi occupo spesso di dover correre dietro a delle tutele di ogni genere, anche i muretti a secco. So che dirò delle cose semplici che interessano l'autorità che qui è rappresentata, non pretendo che ci sia una risposta perché parlano anche a nome del governo, del municipio. Sono più di 30 anni che faccio questo lavoro. Io mi accorgo di questo, soprattutto in questi ultimi anni, che al di là delle leggi che sono ottime, buone, e persino la legge sui beni culturali va bene com'è in sé, si è persa, si sta perdendo, ho l'impressione che si sta perdendo perché non ho il controllo di tutto il territorio, ma le cose che mi arrivano sono sempre simili, che si sta perdendo il controllo. Ho visto con molto piacere che sui nuclei sono usciti non solo sui nuclei, sul paesaggio eccetera, da parte del cantone delle buonissime come si dice, degli opuscoli, delle linee guida. Ecco, mi fermerei un attimo su quella dei nuclei perché mi ha fatto sorridere un esempio di rasa pietra che è ricondotto a Carona, un buon esempio di rasa pietra. Questo esempio di rasa pietra, non so se lo sapete, ma l'ha fatto l'architetto Tita Carloni, nel senso che ha preso il muratore, l'architetto, gli ha detto adesso vi faccio vedere come si fa. La chiesa di Santa Marta, idem. Cioè cosa mi è sembrato che è mancato, ma perché è la mia storia, che è mancato in quell'opuscolo, perché facevano il rasa pietra? Perché costava la malta, perché la pietra che usciva, la bella pietra che usciva, non era bella, faceva risparmiare malta. Ecco, Allora, finché non si approfondisce, finché non c'è magari una scuola di restauro di questi beni, noi non andremo avanti, perché qualsiasi persona che anche vede un rasapietra ben fatto, quando farà quello di casa sua, ci metterà il dito in giro le pietre per farle vedere, oppure ne lascerà spuntare qualcuna perché le pietre sono belle, creando il kitsch, a cui a questo cittadino non si può dire hai sbagliato, hai fatto quello che hai imparato, che hai visto, che ti sembra bello. L'autorità è assente. Io dico assente perché prendo due commissioni assieme, quelle cantonali e quelle comunali, e degli ultimi tempi. A Lugano siamo arrivati, a Carona, dove Poggiati non ignora che un piano regolatore era stato fatto con l'ausilio anche del cantone, perché probabilmente si voleva proteggere come a Fusio a livello cantonale Carona. Per cui invito tutti a guardare il piano regolatore e i suoi documenti di Carona. Sono caduti nel dimenticatoio con l'aggregazione, già un po' prima, ma diciamo con l'aggregazione, si è tentato di reagire, nel senso che un cittadino, per esempio io in due casi, ha fatto ricorso. Allora, se io vedo la casa, ho la legittimazione per ricorrere. Se la casa è dietro quell'altra e si sta facendo scempio, non ho più la legittimazione. Se perdo il ricorso, siccome lo Stato ha aumentato le tariffe giudiziarie, io pago 3-4 mila franchi. Capite che il cittadino del territorio può combattere, ma non riesce più a muoversi efficacemente. Non sono oberate le commissioni, la commissione è sul territorio inesistente. Ormai ho avuto, ormai siamo arrivati a un momento in cui ho dovuto dire alla città di Lugano, al municipio di Lugano, che in un determinato posto una facciata decorata, e finisco qui, una facciata decorata e poi un'altra ancora, avrebbe dovuto passare il permesso di rinfrescarla, che non vuol dire rinfrescarla, vuol dire restaurarla, avrebbe dovuto passare a Bellinzona per almeno due motivi, uno perché è un nucleo e due perché è in un perimetro di protezione di beni culturali. Ebbene, a Lugano l'ufficio preposto mi ha chiamato, si è scusato, mi ha detto che non succederà più, che però loro hanno tre funzionari per controllare tutto il territorio di Lugano e che dipendono dalle segnalazioni dei privati, il che in un nucleo vuol dire litigare con la metà delle persone che in buona fede mandano a Lugano una notifica e poi la procedura non segue il suo corso, per cui qualcuno deve intervenire, vuole intervenire. Per cui i cittadini del territorio potrebbero essere anche in pericolo delle volte. Potenzialmente, finisco, il quartiere di Montarina, dove io ho dovuto occuparmi per un privato di oppormi alla distruzione non ho guardato tanto le case perché non era il mio compito, ma di tutto un parco che non è protetto nemmeno dallo studio che è a Bellinzona in attesa di essere approvato o non approvato. Ecco, il quartiere di Montarina, secondo il mio modesto avviso, con la legislazione attuale è pronto per essere distrutto se non interviene non il cantone, non il comune, ma probabilmente il cantone nell'ambito della vigilanza. Gandria non potrà opporsi molto, anche se la Confederazione dice che bisogna togliere la zona edificabile, dalla zona edificabile la parte che tutti sappiamo che vuole essere edificata. Lugano dice che non vanno bene i progetti, ma non lo toglie per paura di un esproprio. Non andremo avanti. Un giorno verrà costruito, come un giorno è caduta Villa Branca, come un giorno è caduta la Romantica. Non è una cosa che non si sapeva, è una cosa che si sapeva. Ecco. Una cosa invece che chiederei, appoggiati poi terminato, è se c'è un reale studio giuridico questa volta sulle potenzialità, cioè sull'espropriazione. Perché diciamo, è un tema molto importante che viene usato in generale dal politico. Non possiamo proteggere, non possiamo dezonare, non possiamo fare questo perché dovremo pagare un'indennità. Il Tribunale federale ha tutta una giurisprudenza molto molto complessa, ma evidentemente per favorire la pianificazione e la tutela dei beni e del paesaggio, e non è così stupido da dire sì sì, lo proteggiamo ma costa 10 milioni. Bene o male, se bisogna pagare 10 milioni per rispettare il paesaggio, state sicuri che la giurisprudenza evolve nel senso che i 10 milioni non bisogna pagare, non dico sempre. Bene, grazie. Poggiati ha preso nota, ma raccolgo ancora una domanda e poi dopo vediamo di rispondere. Purtroppo il tempo è... Sì. Ecco, fate le domande brevi così possiamo, abbiamo più tempo per le risposte. È già aperto probabilmente. Grazie mille, una domanda veloce. Su rapporto Cantone e Comuni, che mi sembra un nodo assolutamente centrale e interessante, pur comprendendo perfettamente l'approccio del Cantone nel rispetto dell'autorità del Comune, che rappresenta poi ovviamente la comunità locale, però non mi chiedo se avesse o abbia effettivamente senso invece porre delle linee guida, cioè cominciare a costruire un sistema di linee guida sulle quali poi le decisioni in libertà delle comunità locali possono poi essere effettivamente allineate, altrimenti poi si cade in una tutela a macchia di leopardo, no? Che va in qualche modo direttamente proporzionale alla sensibilità di ogni singolo municipio, che può essere effettivamente e particolarmente sensibile al patrimonio oppure assolutamente no. Quindi non dico di andare ad una normativa specifica e sistematica, visto il grande lavoro comunque di censimento che è stato fatto e che continua, ma almeno a una politica di indirizzo, come definire degli standard, anche degli standard in qualche modo non così dettagliati ma importanti, dei pilastri sui quali poi ogni singolo soggetto può evidentemente costruire la sua identità di riferimento, che però non poggia sul vuoto, non poggia, diciamo, su una situazione da costruire da zero, ma poggia su qualche cosa di più. Evidentemente il tema della tutela e il tema della valorizzazione della gestione sono interrelati, una cosa sta nell'altra e una cosa è conseguente all'altra. Lì sta la pianificazione dell'attività culturale rispetto al patrimonio, che oggi fortunatamente in tutta Europa è sempre più partecipata, cioè muove sempre di più dal ridare il potere ai cittadini nella coprogettazione, nella copuratela dei contenuti, e su questo molte cose insomma vengono fatte in modo egregio e anche in Svizzera e cominciano a essere fatte anche in Ticino. Però evidentemente le due cose non possono essere lontane l'una dall'altra. Da un lato iniziare a parlare di standard e di politiche di adeguamento agli standard in una lettura, diciamo, identitaria specifica, e dall'altra sollecitare la partecipazione, ma le due cose non possono che stare insieme, secondo Bene, me. Bene, grazie. L'ultima domanda, poi rapidamente risposte. Mi raccomando, domande brevi. No, non si sente. Sì. Ecco, io di formazione sono storica dell'arte, io gli esperti tanto criticati, e ho partecipato alla catalogazione, all'inventario della banca dati di 100.000 oggetti. Ho censito velocemente delle case antiche nell'Alto Luganese, nella Capriasca e attorno a Lugano, e tutte le schede veloci e foto che facevo andavano nella banca dati del cantone. E ho fotografato anche case contadine, case molto umili, per esempio da Cimadera in giù fino a Lugano e poi attorno a Lugano, e anche delle ville, delle case dell'Ottocento, diciamo. E questo qualche anno fa, avevo un mandato temporaneo, e dopo non ho capito se Bon, questa banca dati è aperta non ai privati per raccogliere informazioni, ma ai comuni. Però non ho ancora capito al giorno d'oggi se i comuni lo sanno, se i comuni, quando c'è un progetto, un problema per un quartiere o l'altro, sanno che possono chiedere informazioni a Bellinzona, all'ufficio beni culturali. Bene, grazie. Boggiati, velocemente una risposta. Sì, come sempre in questo genere di discussione si mettono sul tappeto tantissimi temi su livelli anche molto diversi e quindi la difficoltà di poi fare una sintesi e di capirsi anche molto bene. Inizio da quest'ultima sua osservazione. Sì, i comuni lo sanno, sono informati. I comuni ogni volta che modificano il proprio piano regolatore si confrontano con il cantone, ma in un rapporto istituzionale, mi permetto di dire, sano. Lavorano con degli operatori, i pianificatori, gli architetti, spesso è un team di più persone che si occupa della pianificazione e affrontano i vari temi, tra cui anche quello dei beni culturali. Quindi le informazioni confluiscono regolarmente dal cantone verso i comuni secondo degli stimoli che sono effettivamente differenziati. Questo è un po' un problema. Evidentemente il cantone, se ha l'appiglio di una variante di piano regolatore o di una revisione di piano regolatore, subito segnala la questione dei beni culturali, come di tutta una serie di altre questioni, compresi l'importanza del paesaggio e le dinamiche e le regole che devono essere rispettate per rispettarlo, rispettivamente correggere gli errori del passato e altri temi. Ecco. Però noi non possiamo, rispettivamente, noi stimoliamo talvolta i comuni a partire con la revisione dei piani regolatori per i beni culturali, ma se non c'è volontà politica a livello comunale, soprattutto se non c'è una spinta popolare da parte dei cittadini o di una parte dei cittadini, non necessariamente la situazione si sblocca. Però la guardo positivamente. Negli ultimi 10 anni, nonostante che da anni il cantone dicesse che bisognava fare questo lavoro, le grandi città del cantone si sono finalmente mosse e si sono anche mosse bene. Poi sono percorsi molto lunghi, con mille difficoltà. Se prendiamo l'esempio di Lugano, su cui non posso esprimermi perché siamo ancora in procedura, però sono significativi i tempi a livello comunale, a livello cantonale, ma anche le dinamiche. Ora, qui mi permetto anche di dire una cosa: si continua a dire, e giustamente, che la tutela dei beni culturali deve partire dal basso, e poi però si chiede al cantone di intervenire e far pressione sui municipi. In realtà è già così, però, e riprendo i concetti che sono stati espressi in precedenza, la politica dei beni culturali va anche attraverso delle regole, evidentemente, ma va attraverso una sensibilità collettiva che non è solo dell'autorità, ma è proprio anche della cittadinanza. Perché, e mi permetto di essere provocatorio, quando uno è toccato direttamente dai vincoli che lo Stato pone, comincia a essere un po' meno idealista nei propri intenti. Quindi l'autorità è forzatamente confrontata con una costante tensione tra l'interesse privato e l'interesse pubblico, che deve essere in un qualche modo conciliato, ma in una maniera equa per tutti i cittadini. Quindi se io tutelo un bene culturale, non tutelo solo quel bene culturale di quel proprietario, ma tutelo una categoria di beni con una strategia che è appunto corretta e rispettosa di tutti gli interessi. Quanto ai dezonamenti o al ruolo del cantone, il cantone non è assente, direi che è molto presente. Ci sono dei comuni che dicono che è troppo presente nella gestione del territorio. Questo meriterebbe un dibattito a sé stante. Non è vero che non è abbastanza presente, penso che Cristina tu puoi confermarlo, nel bene e nel male. C'è sempre un rapporto d'amore e di tensione a dipendenza dei temi che si devono trattare. C'è chi dice che noi come cantone interveniamo troppo nell'autonomia del comune, e c'è chi dice esattamente il contrario. Però siamo presenti. L'impianto delle normative di valorizzazione e tutela del paesaggio è recente, del 2012, è frutto di una politica lanciata nel 2005 con nuove basi legali, una struttura amministrativa diversa a livello cantonale, la pianificazione del territorio di cui avete più o meno parlato come il grosso problema all'origine di certe tutele. oggi è amministrativamente accorpata alla sezione che dirigo insieme alla natura e paesaggio. Quindi paesaggio, natura e beni culturali e pianificazione fanno parte di un'unica struttura e quindi il coordinamento oggi avviene molto bene. La base legale c'è, le linee guida le abbiamo pubblicate, piacciono o non piacciono, però sono presenti. E quindi chi vuole fare può fare. A volte chi vuole fare fa bene, a volte chi non vuole fare viene obbligato a fare, a volte chi non vuole fare riesce a non far niente, perché la realtà in cui operiamo è abbastanza complessa. Infine, il signore che penso che sia spostato per il sole, immagino, ecco, anche lei ha accennato appunto al rapporto Cantone-Comuni, però qui più in relazione alla pubblicazione di linee guida, di linee metodologiche, di... Ecco. Le abbiamo fatte, ne mancano ancora. E... Nel senso, la regola da ancorare nel piano regolatore, dice lei. Ci sono, abbiamo emanato questa è una direttiva che è un regolamento edilizio, diciamo la base per i regolamenti edilizi comunali che si chiamavano una volta norme d'attuazione del piano regolatore, adesso è il regolamento edilizio, in cui ci sono, c'è l'impianto normativo che il comune può prendere tel che e adattarlo alla propria realtà. Io non credo che oggigiorno i comuni che come noi sono sovraccarichi non sappiano come fare quando decidono di fare qualche cosa. Ci sono dei motivi diversi per cui magari un processo non parte. Può essere un motivo politico, ma può essere anche un motivo davvero adesso di sovraccarico rispettivamente di altre priorità. Sui beni culturali, e concludo, registriamo un fermento a livello comunale positivo, cioè i comuni adesso si stanno muovendo molto di più rispetto al passato. Questo genera anche dei problemi di sovraccarico di lavoro, ma è un sovraccarico sano, nel senso che verte verso un obiettivo che evidentemente noi condividiamo e penso che globalmente è da condividere. Però ripeto, l'istituzione delle tutele, l'istituzione della tutela è un processo lungo ma anche complesso. Sono stato forse frainteso sulla figura dell'esperto, me ne dispiace, ma non c'è tempo per chiarire questo aspetto. Il senso del mio intervento prima è che, Cristina, mi permetto di dirlo in questi termini, come ci vuole l'ingegnere per fare il calcolo statico di un edificio, ci vuole l'esperto, che sia storico, che sia l'architetto, per intervenire su un bene che ha dei valori che vanno non solo riconosciuti, ma recuperati e preservati. Non daremmo mai, che so io, in mano a una persona che non è qualificata un'opera di restauro di un quadro, di una statua. Un edificio ha esattamente lo stesso tipo di delicatezza, talvolta, per esempio il Monte Verità, e quindi necessita di competenze tecniche. Quindi io sono stato frainteso, non volevo dire che devono essere i tecnici a decidere cosa tutelare e cosa no, perché non sarebbe effettivamente nemmeno conforme alla legge un'impostazione di questo tipo. Bene, brevemente Cristina, mi hai chiesto di... Sì, no, solo magari qualche dettaglio che riprendo da questa discussione. Sicuramente il tema del controllo del territorio è un tema fondamentale, proprio per questo dicevo che bisogna ridiscutere anche il ruolo delle commissioni locali, non solo in termini di sostituirsi agli esperti che esistono già a livello cantonale, ma di avere più un ancoramento sul territorio, anche un po' più di controllo, anche questo permette, no? Il fatto di riuscire a avere qualche processo partecipativo in più. Bisogna però comunque considerare che noi siamo qui, meno io sono qui, perché ci sono delle elezioni e nelle elezioni ci sono poi delle posizioni che si confrontano. Le posizioni non sono tutte nella medesima direzione. E correggere una pianificazione come a Lugano, dove abbiamo gran parte di beni culturali che sono su sedimi R7, significa discutere intensamente anche con i proprietari privati che giustamente hanno anche delle possibilità edificatorie che vengono notevolmente diminuite. Quindi il tema dell'esproprio è sicuramente un tema da affrontare. Un tema che si potrebbe risolvere, ad esempio, con la legge che adesso nel frattempo penso che sia entrata in vigore in relazione ai bonus malus quando ci sono dei cambiamenti pianificatori che prossimamente bisognerà iniziare ad applicare, e quindi questi proventi che vengono dagli azzonamenti o dagli aumenti di edificazione devono andare a favore di dezonamenti o di progetti a favore anche appunto del preservare i beni culturali. Ecco, questo un po' per dire che uno dei temi sarà quello anche di confrontarsi in questo cambiamento di tendenza, di confrontarsi anche con coloro che poi devono realizzare questa tutela, che giustamente magari con più sensibilizzazione potremmo evitare di dover invocare sempre la necessità di espropriare. Magari dobbiamo iniziare ad educare dal basso, iniziamo dai bambini con l'AC, con I2A, stiamo iniziando anche come città a sostenere delle più attività anche dedicate ai bambini, che si rivolgono anche di quello di guardare il paesaggio, di capire meglio il nostro paesaggio costruito, di conoscere anche i nostri beni culturali. E il basso può essere anche quello non solo della popolazione tutta, ma proprio di partire dal basso, cioè dall'educazione dei bambini, andando in su in tutta la popolazione. Bene, grazie. Il tempo ormai scorre velocemente, sì. Sarò telegrafico. Centro Nazionale di Informazione sul Patrimonio Culturale. 10 e 11 settembre ci si può avvicinare ai beni culturali, c'è un programma nell'ambito delle giornate europee del bene culturale, in Ticino c'è un programma, non so se lo sapete, Carona, Crolio, Lugano Barbengo, Morcote, se volete sapere di più io sono qua. Perfetto, grazie mille anche di questa informazione, purtroppo siamo in ritardo e non vorrei... mi scuso con il duo Rocca Benigni, il tema naturalmente è molto sentito e ricordo che naturalmente siamo noi i protagonisti, siamo noi coloro che possono intervenire e quindi difendere il patrimonio. Quindi grazie a tutti voi per essere intervenuti, grazie in particolar modo ai nostri ospiti e do adesso non tanto la parola ma voce agli strumenti del duo appunto Rocca Benigni. Grazie.